Molte volte mi domando cos'è che sta succedendo. Questo mondo che si ribella sempre di più. Ma dimmi tu come si fa ad ammazzare senza un po' di pietà. Ma dimmi tu come si fa a vivere in questo mondo qua. Molte volte mi domando come si fa a far credere che non c'è da preoccuparsi, che va tutto bene in questo mondo qua. Ma come fanno a dire che non c'è guerra e tutto va bene? Arriva alla fine del mese e voi che dite che non c'è crisi. Ma dimmi tu come si fa, quanti soldati ammazzati per una stupida guerra.